Ci siamo incontrati in mensa. Mi ha chiesto com'era la pasta al salmone e io le ho risposto che non sapevo nemmeno perché l'avessi scelta io la pasta al salmone, perché da quando l'avevo vomitato a 15 anni il salmone affumicato manco lo mangiavo più. Lei mi ha detto che il signore che serve i primi è molto convincente e che è difficile dirgli di no. Poi ci siamo salutati. Ecco come l'ho incrociata. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 7 minuti, Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Non vorrei essere brusco, ma che cosa vogliono le donne? Insomma, non riesco a capirlo. Vogliono che le invitiamo, vogliono che non le invitiamo, vogliono che facciamo il primo passo, che non facciamo il primo passo. Vogliono che stiamo sopra, vogliono stare sopra loro, che usiamo il balsamo, che non usiamo il balsamo. Si può sapere che cosa volete? Te lo dico, non abbiamo la minima idea di quello che vogliamo. Lo sapevo. Le donne vogliono che gli uomini siano anche un po' donne, che sappiano essere uomini senza doverlo dimostrare a tutti i costi. Roberta. Quello che chiedono anche alle donne, agli esseri umani in genere, che sappiano stare al mondo con decenza. Alessandra. Un bambino, credo. Caterina. Che abbia senso dell'umorismo, che abbia sempre un progetto per la sua vita, che abbia voglia di lavorare, che prenda la vita alla leggera, sempre, ma che quando arrivano i momenti duri non si scoraggi e li affronti. Che non cambi solo perché lo voglio io. Luisa. Allora, è successo così. È successo che io ormai ho fatto questo patto, no? E il patto è che vi racconto praticamente tutto quello che mi accade. Visto che quello che mi accade ha a che fare con quello che vogliono le donne, e quello che mi accade, mi accadrà a breve, mi sta mettendo un po' di ansia, l'ho semplicemente chiesto, l'ho fatto alle donne. Ma hanno risposto anche gli uomini, non si tirano mai indietro. Gli uomini, quando c'è da dire qualcosa, anche sulle donne, loro sono sempre pronti. Tu dici, solo donne? Niente, arriva sempre qualche Marco, qualche Paolo in mezzo ai piedi. E le donne, secondo me, non hanno le idee moltissimo chiare, eh? Che raggiunga la mia anima, che mi ami profondamente e teneramente ma senza soffocarmi, che desidera essere padre dei nostri figli, che apprezzi il mio lavoro e i miei interessi oltre a trovarmi meravigliosa e unica, e poi che sia per me un punto di riferimento, che si diverta a passare il tempo con me, e tutto questo rimanendo sempre se stesso, con i suoi interessi, passioni e amici. Elena. E poi cosa vuoi, Elena? Che già che c'è ti passa il battitappeto anche, ad esempio. Che mi consideri unica ed insostituibile, anche se sono alta o bassa, grassa, magra, bionda, nera, che sappia cucinare, che lo avveleni, che sia logorroica o ermetica, ignorante o colta. Susanna. 80024 0024 349 238 6666. Io non ci ho capito niente. E allora facciamo così. Solo donne che hanno un uomo. Mi dispiace. Mi dispiace davvero. Ma oggi niente donne single, niente zitelle. Ah, ovviamente niente uomini, grazie. Solo donne che abbiano una relazione, che abbiano un uomo, dalle quali io vorrei sapere non che cosa vogliono da un uomo, ma semplicemente che cosa vogliono dal loro uomo, adesso alle 16.09 di venerdì 5 novembre 2010, che magari non gli ha spostato il divano che gli aveva chiesto di spostarli, magari non è andata a prendere il figlio a scuola e lei gliel'aveva chiesto, o forse non gliel'aveva ancora chiesto, magari vogliono semplicemente che cucini qualcosa per stasera perché lei non fa in tempo. Qualsiasi cosa vogliate dal vostro uomo, ma che sia una cosa semplice, immediata, 80024 0024 oppure 349 238 6666. Magari, essendo venerdì, magari siete in macchina insieme. Cioè, non che il venerdì tutte le coppie siano in macchina insieme per forza, però magari state andando da qualche parte. Se siete in macchina con vostro marito, o col vostro fidanzato, o con quello che è, e siete una donna, e non gliel'avete ancora chiesto, 80024 0024 oppure 349 238 6666. Ditelo a me che cosa volete da lui, ok? Poi, ieri, visto che se ne parlava, è da un po' che se ne parla, perché qui non si batteva chiodo da mesi, quindi insomma, visto che sta arrivando l'appuntamento, sono un pochettino agitato. Allora ne parlavo anche con Vittoria Mussini, che è l'assistente più donna che ci sia in realtà in tutta la redazione, e Tiziano Bonini, che come al solito è una persona di grande intelligenza e grande generosità, mi ha regalato questo. Non me l'hai regalato in realtà, no, me l'hai solo prestato, ok. Ma scusa, ma l'altro su Federer me l'avevi regalato però, ok? No, perché sai quando tu tieni questo è per te e poi tu credi grazie, te lo metti in tasca. Questo te lo restituisco. Allora, Tiziano ha trovato questo libro, che è un libro degli anni 50, che ha trovato su eBay, mi hai detto. Chi è che ce l'aveva? Chi era il proprietario? Era qualcuno? Era un agriturismo, che è un signore che ha un agriturismo, aveva questo libro che si chiama Le italiane si confessano. L'autrice è Gabriella Parca ed è un libro che è uscito nel 1959 ed è una sorta di consuntivo di tutte le lettere che negli anni 50, quindi 60 anni fa, le donne italiane scrivevano alle rubriche femminili, no? Quelle che adesso poi sono la Aspesi, Mina anche mi pare che scriva, ok, robe tipo, insomma, quelle robe lì tipo la posta del cuore. Ve ne leggo un paio, perché la sensazione è che sono passati 50 anni, cambia il linguaggio, ma il resto. Mi metti una base, Roberto, una roba, bravo. Lui e Bonini quando c'era da mettere una base incredibile. Questa lettera arriva dall'Emilia. Ho 19 anni e sono molto carina. Queste le mie misure, altezza 1,75, vita 60 cm, fianchi 1 metro. Tutti mi ammirano per la mia somiglianza con Brigitte Bardot. Sono corteggiata, tutti mi vorrebbero. A me però piace un ragazzo di nome C, che assomiglia a Raf Mattioli. Fino a un anno fa filavamo il perfetto amore, ma quando mi vide tutte le sere accompagnata con un giovanotto diverso, incominciò a essere geloso. Io gli dicevo che non c'era bisogno di dubitare di me. Più tardi incominciò a vedermi sul lungomare a spasso, di nuovo un'altra scinata, e con questa se ne andò. Io gli voglio bene e siccome l'ho visto ieri sera con una ragazza, mi sono rivolta a voi per un consiglio. Vi faccio sapere che ho tanti ammiratori e che se mi decidessi a fidanzarmi farebbero dei salti così. Ma io non riesco a dimenticarlo e spero che ritorni da me, perché è tutta la mia vita. Questa è una, ve ne leggo un'altra, poi sono tutte magnifiche. Questa lettera arriva dalle Marche, ripeto, siamo negli anni 50, Sono una ragazza di 16 anni e amo un giovane 23enne, bellissimo ragazzo, che farebbe qualsiasi sacrificio pur di farmi contenta. Però mia madre non vede di buon occhio il nostro fidanzamento, perché un fratello del mio fidanzato è morto di tubercolosi contratta in guerra. Io però non voglio perdere l'uomo che amo e sento che non potrei amare nessun altro come lui. Sono lettere prese da un libro che si chiama Le italiane si confessano, era edito da Feltrinelli, però parliamo degli anni, fine anni 50, anni 60. Le italiane si confessano tutto quello che le donne dell'epoca volevano, ma anche quello che vogliono le donne oggi dal loro uomo. 80024 0024 349 238 6666. Ieri ho risentito Simona. Era da un po' che non la sentivo. Ve la ricordate Simona, no? Avevo lasciato da lei una borsa quando stavo da lei. Ormai la davo per persa. Invece lei stessa mi ha mandato un messaggio e sono passato a riprendermela. E tutto è filato abbastanza liscio. Nessuno dei due ha fatto cenno a quello che è successo, ai maglioni di cashmere o alla sindrome di Declerambeau. In compenso, lei mi ha raccontato che frequenta una persona, che sta molto meglio. Ci ha tenuto tanto a dirmi che questo tizio la fa molto divertire. E lo ha detto con un tono, con un sorrisino ammiccante, che faceva chiaro riferimento alla loro affinità sessuale. Io ho preso la mia borsa, l'ho salutata e sono uscito. Sono salito in macchina e ho cominciato a pensare a questa cosa della sessualità. E guardavo in giro e non riuscivo ad evitare di pensare alle persone che mi circondavano se non in quei termini lì. Al semaforo, una coppia di ventenni, in motorino. Ecco, loro sicuramente lo faranno tutti i giorni, più volte al giorno magari. Magari ancora non sanno tutto, però sanno quanto basta per divertirsi e non si fanno troppi problemi. Nell'auto dietro c'è una coppia, forse marito e moglie, sui 50 anni. Hanno due figli sui sedili posteriori. Dai movimenti delle mani, lei sembra sgridarli. Intanto il marito guarda dritto di fronte a sé. Chissà quante volte lo faranno loro. Due sicuramente, visto i figli sul sedile dietro. A vederli così però, sembrano avere altro per la testa. Un tizio cammina sul marciapiede, sui 40, ben vestito. Ha in mano un pacco che sembra una bottiglia di vino. Probabilmente sta andando a cena. Da amici, forse. No, però in questo momento, per me, lui sta andando dalla sua amante. L'amante con cui si concede una notte di libertà. Lei l'aspetta a casa, hanno fissato la cena da un po', perché sapevano che lui era solo oggi. Probabilmente alla fine non mangeranno nemmeno, o magari lo faranno molto tardi. Lei ha sempre qualche speranza che lui lasci la moglie, per il momento si accontenta. Lui si accontenta e basta, anche perché erano anni che il suo corpo non si sentiva così vivo come in questi giorni. Passa una coppia di signori anziani, tra i 70 e gli 80. Mi sembrano sereni. Boh, probabilmente loro non ci pensano più da un po'. In alto c'è un cartellone con una bionda in costume che pubblicizza dei pneumatici, però dalla sua faccia non si capisce se e quanto lo fa. Passo davanti ad un centro messaggi cinese, di quelli che mettono in allarme tutta la cittadinanza perché a Milano pare che ne aprano tre al giorno. Hanno delle vetrine che sono coperti da adesivi rosa, fucsia, con dei fiori. E delle scritte che raccontano di momenti di benessere e di relax, il tutto a 30 euro. Attraversa la strada una ragazza, deve essere appena uscita dall'ufficio. Cammina placidamente, parla al telefono. Anzi, più che altro, lei sta ascoltando qualcuno che parla dall'altra parte del telefono. Non ha nemmeno 30 anni e già lei e il suo fidanzato non lo fanno più. Lui adesso le sta rimproverando qualcosa, ma non lo ascolta nemmeno. E la cosa che più le stupisce è che non sente nemmeno il bisogno. Un ragazzo la incrocia sulle strisce pedonali e si gira a guardarla. Nella sua testa fa qualche apprezzamento irripetibile. Poi lo guarda continuare per la sua strada, incrocia un'altra donna e si gira a guardare pure lei. Boh, sarà che sto pensando a quello, ma ho la sensazione di non essere il solo a farlo. Pronto? Ciao, ciao, sono Matteo. Ciao, ti disturbo? Ok. Ok, meglio così. Bene, bene, grazie. Tu? No, perché arrivo tardi, quindi in mensa ogni tanto ci passo quando arrivo per l'ora di mensa, insomma. Se no, magari arrivo alle 2 e quindi vado poi direttamente in onda alle 4. Sì. No, io ti ho vista al bar l'altro giorno. Vabbè. Senti, no, volevo semplicemente così, visto che ci eravamo detti che magari ci si vedeva, se ti andava questo fine settimana magari. Tu non vai via, no? Sei a Milano? Ok, perfetto. Allora, boh, tipo venerdì magari. Ottimo. Ok. 8:30. Va bene. Non lo so, vedi tu, ci mangiamo una cosa. Va bene, perfetto, dai, facciamo così. Ci mandiamo magari un messaggio o ci sentiamo poi venerdì per l'ora precisa. Ok, perfetto. Un bacio, ciao, ciao ciao. Ci mangiamo qualcosa, ma che imbecille. Ma proprio un cane, sono un cane. Insomma, tutto per dire che stasera esco con una ragazza. È da tanto che non lo faccio. Tra una cosa e un'altra ormai era qualche mese, che proprio non ci pensavo neanche. Un amico mi ha detto che secondo lui alcune cose inibiscono il rapporto con l'altro sesso. Altro mi ha detto che passati 30 anni si dà un significato diverso ai rapporti con le donne. Insomma, ognuno la vede a modo suo e dà una sua interpretazione delle cose. Il problema però è che come al solito di queste cose gli uomini ne parlano con gli uomini, no? E quindi da uomini. Un po' come accade abitualmente quando fai una cena con dei maschi oppure dopo la partita di calcetto. Però quando ho chiesto con molta semplicità che cosa si aspetta una donna da un'uscita di un venerdì sera, tutti mi hanno detto cose che io già conoscevo e che sono per lo più dei luoghi comuni, no? Per l'amor del cielo, io non disdegno mai i luoghi comuni, perché credo che essendo comuni, per forza qualcosa di vero ce lo devono avere. Però, proprio perché è molto comune, non ti dice niente di nuovo. Quindi è stato tutto un rosario di robe tipo: una donna quando esce con un uomo non pensa mai solo a quella serata e basta, ma proietta tutto nel futuro, pensa come potresti essere collocato tu in quel futuro. Oppure che una donna non pensa mai solo al sesso, o ancora che quando parli con una donna che ha cena con te devi sapere che lei sta pensando a quello che tu dici, ma anche alle aspettative che lei ha su quello che tu dici. Insomma, sarà che da un po' che non esco con una ragazza, ma gli amici intorno a me mi hanno quasi terrorizzato, al punto che sto ormai pensando di mandare tutto a monte. Ci siamo incontrati in mensa, io e lei. Sì, lo so, sarebbe stato meglio ammantare l'incontro di un'aura di romanticismo, però è andata così. Ci siamo incrociati al self-service tra il banco delle bistecche e il distributore delle bibite, con il vassoio in mano. Io l'ho lasciato la precedenza e lei mi ha ringraziato, sorridendomi. Mi ha chiesto com'era la pasta al salmone che avevo preso, e io ho risposto che effettivamente non sapevo manco perché l'avessi presa, visto che da quando a 15 anni l'ho vomitato, il salmone affumicato io non lo mangio più. Lei mi ha detto che il signore che serve i primi è molto convincente, che è difficile dirgli di no. E poi ci siamo salutati. Ecco, l'ho incontrata così. Lavora qui dentro ma non so esattamente che cosa faccia. Ci siamo rivisti un paio di volte al bar. Volevo offrirle da bere però poi non avevo la chiavetta e quindi me l'ha pure dovuto offrire lei. Poi l'altro giorno mi ha chiesto se nel fine settimana rimanevo qui a Milano. Io le ho detto di sì e le ho chiesto: e tu? E lei mi ha detto che di solito torna a casa in provincia, ma che questo fine settimana era qui. C'è stato un attimo di silenzio, un attimo in cui è stato chiaro che qualcosa al riguardo glielo dovessi dire, no? E infatti l'ho detto. Beh, allora possiamo mangiarci qualcosa. La cosa più banale, inutile e prevedibile che potessi dire: beh, allora possiamo mangiarci qualcosa. Lei ha fatto finta di niente, molto gentilmente, e ha detto: volentieri. Ecco, dunque, per un pomeriggio sono stato contento. Poi è cominciata a salirmi l'ansia. E ormai mancano poche ore a stasera. E la domanda nella mia testa vortica a velocità impressionante: che cosa si aspetta una donna da un uomo? Che so, sicurezza, divertimento, spensieratezza, delle promesse. Davvero io non lo so. E vorrei tanto saperlo. Sono una ragazza di 24 anni, sono fidanzata in casa da circa 5 anni, ci volevamo bene ed ancora oggi continuiamo, ma circa 2 anni fa lui fu arrestato per essersi portato via una ragazza. Con tutto ciò io l'ho aspettato perché gli volevo bene. Ora sta un fatto, che da quando manca lui, scusatemi, ho dimenticato di dire che è stato condannato a 1 anno e 2 mesi, viene qui tutti i giorni suo fratello, ed io lo trattavo con rispetto che si può portare ad un cognato, ma un giorno mi baciò e non ho fatto niente per trattenerlo. Mi lasciai baciare e da quel giorno mi innamorai di lui. Lui mi dice che mi ama, ma non vuole fare una sgarberia a suo fratello. Il mio fidanzato fra giorni sarà fuori e non so che impressione mi farà. Vorrei tanto dimenticare mio cognato, ma è più forte di me. Questa lettera arriva dal 1950 e arrivava dalla Sicilia. Invece al 349-238-6666 non arrivano delle lettere, ma arrivano dei messaggi molto semplici. Voglio che mi lasci la gabbia aperta, Silvia. Voglio che il suo lavoro non sia sempre al primo posto e che ci sia più sesso, Marina. Voglio un piccolo, breve viaggio a sorpresa, Silvana da Vicenza. Voglio che mi porti in Giappone. Voglio che mi dica che sono bella, Marzia. Voglio che prenoti il ristorante per questa sera, Cristina. Semplicemente per il mio compleanno voglio la Wii, Adele. Voglio che mi risponda al telefono, questa già non sarebbe male. 800240024 oppure 349-238-6666. Se siete una donna, ci avete un compagno, che magari è pure lì con voi, e non avete il coraggio di dirlo a lui, ditelo a me. 800240024, che cosa volete da quest'uomo? Non vedo l'ora di vederlo, è l'unica cosa che voglio, dopo una settimana di lavoro duro da entrambi, eccetera, eccetera. Vabbè, modestissima l'emiliana, questo è riferito alla lettera di prima. Che progetti il suo futuro da pensionato, tenendo presente che io ho 15 anni di meno e ne devo lavorare ancora 20. Lori, vorrei che il mio compagno trovasse del tempo per divertirsi con me. Ciao Elena. Sai chi avremmo dovuto sentire oggi? Giacomo da Catania, il di ieri. Secondo me Giacomo ne aveva qualcuna. Non lo so, Tiziano, se è il caso di chiamarlo, perché poi Giacomo è sempre una mina vagante, eh? Ieri mi ricordo ancora la telefonata. 800240024 oppure 349-238-6666. Vorrei che si ricordasse le cose. Io sono molto brava in questo e non sopporto che si dimentichi tutto. Questa cosa mi fa terribilmente arrabbiare. Lui è un ingegnere aerospaziale come me, cioè due ingegneri aerospaziali insieme come me, e le cose che studia sono le uniche che si ricorda. Giorgia, se hai voglia, 800240024, adesso la borsa e dopo io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo in una stanza da letto, direi, perché c'è proprio in alto sulla sinistra c'è un letto sfatto con delle lenzuola, delle coperte, una maglietta buttata lì. Il centro e il cuore della fotografia però è un tavolo su cui ci sono dei disegni. Non ci sono solo dei disegni, a dire la verità, ci sono degli schizzi di disegni tutti colorati, e poi c'è una bottiglia di tè freddo, un bicchiere, un posacenere con dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sigarette, un astuccio per le matite, una piccola agenda, un portaocchiali immagino, un cellulare e poi dei pennarelli, una gomma, una matita. E al centro c'è il disegno che sta nascendo ed è un ponte, è un ponte in prospettiva. Così a occhio direi che è il ponte di Brooklyn, perché ha le campate, quelle a doppio arco che sembrano di fine 800, dei primi 900, e poi ha tutti i cavi tenditori disegnati. È disegnata a matita, mi pare. Sì, è disegnata, o forse, non lo so, forse a carboncino. Sono Luigi Costamagna, ho 20 anni, un pennarello nero in mano e un foglio bianco. Sono davanti alla mia scrivania a fare ciò che più mi piace, disegnare. Io sono qui. Bravo Luigi, tu sei, e noi siamo un pochettino qui con te in questa fotografia. Anche se ti volevo un po' più sciolto, Luigi. La prossima volta, bel respiro prima di raccontarci cosa stai facendo. Andate a vedere però la foto e il disegno di Luigi sul sito di Radio 24, radio24.it, alla pagina Io sono qui. O se volete invece spulciarlo tra le foto che arrivano sul profilo Facebook, andate su Matteo Caccio, Io sono qui. Solo che lì ce ne sono ormai 250-300, quindi dovete semplicemente indovinare qual era la foto di oggi. Che cosa vogliono le donne? Vogliono delle cose molto semplici. Vorrei che mio marito venisse almeno una volta insieme a me a fare shopping al centro commerciale. Siccome è tutto divertente, insieme a lui lo sarebbe anche quello. Vorrei che Pinuccio non buttasse via niente senza prima chiedermelo. Ah, e poi vorrei che fosse meno ficarra e più picone. Margi, Pinuccio, eh? Poche cose, ma chiare. Ciao, sono sposata da 14 anni. L'unica cosa che voglio è arrivare alla fine con lui. Gli chiedo solo di farmi ridere, di non prendersi troppo sul serio. Fino ad ora ci è riuscito e non credo fallisca in futuro. Baci Lu. E allora, se ci è riuscito, di che stiamo parlando, come direbbe qualcuno. Andiamo però direttamente... Ah, perché è arrivato questo messaggio prima, da Teresa. Vorrei che non mi parli più di cibo. Stiamo diventando due ciccioni. Teresa è al telefono. Pronto, Teresa? Sì, eccomi. Ciao, Matteo. Ciao, buongiorno. Come stai? Buongiorno, bene, sorrido perché proprio non mi aspettavo che mi chiamassi. Invece io sorrido perché vorrei sapere a questo punto qual è il tuo peso. Ma oddio, non sono proprio così cicciona, però sono 1,67 m. Però non mi hai detto quanto pesi, Teresa. Aspetta, perché litigo sempre con la bilancia, Matteo. Io non ci salgo da un po'. Ti posso dire la taglia? 46, non l'ho mai portata. 46 è piccola, è buona 46. Media. Però è meglio alta perché il giro vita che sta andando via, insomma sono un po' avvilita e lui mi dice sempre ogni giorno puntuale a mezzogiorno cosa si mangia oggi, mamma mia. Non se ne può più, pesa, vuole anche mangiare a mezzogiorno, Teresa. No, aspetta. Comincia a quell'ora a chiedere cosa si mangia, per cui dobbiamo pensarci. Anche se a volte ci pensa lui, perché è così carino. Poi per il resto è molto carino. Però dice che il cibo è una delle cose belle della vita. È uno dei piaceri della vita, certo. Sì, Teresa, sì, scusami, sì. ma voi siete a casa tutto il giorno sempre insieme? Quindi al punto che lui a mezzogiorno comincia a chiederti che cosa mangiamo? No, attenzione Matteo, non a casa. Noi lavoriamo gomito a gomito. Io lo aiuto nella nostra attività. Che attività avete? Al commercio di abbigliamento. Ok, di dove sei, Teresa? Cava di Tirreni, Salerno. Ok, perfetto. Teresa, comunque alla fine non mi hai detto il tuo peso, ma va bene così. Ti ringrazio, salutami tuo marito. Figurati, ciao Matteo. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Non ho capito, ma era un superlativo, quindi andrà sicuramente benissimo. Andiamo da Sonia, in provincia di Lucca. Pronto, Sonia? Ciao Matteo. Ciao. Tu ti aspetti dal tuo uomo un po' più di puntualità. Esatto. Ma quanto arriva in ritardo in media? Ma no, lui è il ritardatario classico, sai, quelle persone convinte. Quanto manca l'appuntamento? Un quarto d'ora? Ah vabbè, 3 minuti per fare la doccia, 2 secondi per fare la barba, apro l'armadio, scelgo la camicia, il viaggio, 2 secondi, c'è ancora tempo, almeno ancora 4 minuti. Beh. E poi invece la media è l'ora. La cosa penosa, al di là del tempo che devi aspettare, è che siccome abitiamo a circa 20 km di distanza, cioè io sono sul mare in Versilia, lui invece a Lucca. Ma non siete sposati quindi? No, stiamo ognuno per conto suo, no? Quanti anni per decidere di vivere insieme. Cioè sì, perché no, la regola è che si è o troppo piccoli o troppo grandi. Siamo dirottamati in riciclo. La volevi proprio dire, perché l'hai ripetuta 3 volte questa del rottamati in riciclo. Quanti anni avete, Sonia? Allora, io 46 e lui 56. Ammazza, sembrava che ne aveste 80, da come lo dicevi, rottamati il riciclo. No, rottamati il riciclo, nel senso abbiamo già fatto le nostre esperienze di matrimonio, allora abbiamo deciso di vivere liberamente la nuova storia d'amore che ci ha fatto di vivere insieme. No, per il resto va molto bene, perché lui è molto, molto creativo, molto divertente, molto intelligente. Però ci sono a volte delle situazioni imbarazzanti. Puntualità, va bene. Come si chiama lui? Roberto, diglielo pure, Sonia, vai, diglielo. Glielo dico, ma io insisto, però sarà senza speranza, però io vado. Grazie mille, ciao Sonia, buona giornata. Grazie a te, ciao. C'è un'altra di queste lettere che arrivano che arrivavano ai giornali italiani nella rubrica femminile 60 anni fa. Questa arriva da Napoli. Sono una donna di 34 anni e non mi sono maritata. È inutile dirvi che per questa ragione sono in urto con mia madre. ma cosa posso fare se dalla più giovane età mi è piaciuto vivere di fantasia e la realtà non mi attrae? Amo la vita in immagini, amo scrittori, attori e musicisti perché ritengo che questi siano i veri uomini. Non è forse così? Ora mi capita di conoscere un uomo di 54 anni, il quale vorrebbe sposarmi. Un uomo così, alla buona, uno di questi tipi che hanno una cultura a orecchio e quando parlano è un piacere ascoltarli. Insomma, un placido ignorante. Inoltre si veste malissimo e porta delle cravatte che fanno spavento. Posso io sposare un uomo così? E mia madre a dirmi che sono una spostata e tante altre parolacce. È vero che chi non vuole maritarsi è una spostata? 800240024 oppure 349-238-6666. Ve le leggerei tutte, ma non è possibile. Se lo trovate in giro, Bonini ha trovato su eBay tramite un agriturismo. Si chiama Le italiane si confessano ed è un libro della Feltrinelli. 800240024, andiamo da Valeria. Pronto, Valeria? Pronto. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Mi sembra molto chiaro quello buonasera. Mi sembra molto chiaro quello che tu vuoi da tuo marito. Esatto, è sì. Molto semplice, perché gli hai chiesto di andare a prendere vostro figlio perché aveva passato tutta la mattina in posta. Tu hai passato la mattina in posta? Sì, spiego, perché ho scritto per semplificare. Vai. Ho passato metà della mattina a cercare di mandare delle email che servivano per tutti e due, non solo per me, e la seconda parte della mattinata in posta a fare dei bonifici sempre per noi, esattamente per la casa che stiamo costruendo insieme. E dopodiché dovevo fare anche la spesa per cinque in famiglia, gli ho detto... Siete in cinque in famiglia? Sì, perché io ho due bambini, uno di 8 e uno di 3, e lui ne ha uno precedente di 11 anni. Ma siete anche voi, allora... come Sonia prima, rottamati in riciclo? Esatto. Cioè, quanti anni avete, Valeria? Io ne ho 28 e lui ne ha 39. Ma di dove siete? Adesso abitiamo vicino a Modena, provincia di Modena, però io sono friulana, di Udine. Ah, ok. E lui è della zona invece? Sì, lui ha sempre abitato qui. È andato a prendere allora vostro figlio alla fine o no? No, sono andata io, però non ho fatto la spesa. Adesso andremo avanti, passo in bianco fino a lunedì. Beh, certo, perché a Modena non ci sono supermercati aperti il sabato. No, nel senso che dopo, perché adesso stiamo facendo la casa, quindi c'è sempre da lavorare, lui si lamenta che non ha mai tempo. Okay. E vuole sempre fare una cosa in più, come se io volessi solo andare in posta. E fare bonifici per tutti, sì. Certo. Valeria, sei friulana, ma sei venuto un bel accento di Modena comunque, Sì, dopo una settimana che abitavo qui... Va bene, Valeria, ti lascio andare a fare bonifici in posta. Grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima. Anche a te. Ciao. Margherita, niente che non si possa facilmente trovare in una profumeria o in una gioielleria. Antonella invece dice, voglio un uomo imperfetto, coraggioso, perché ha paura e sicuro, perché sa di non sapere, che non abbia tutte le risposte ma la voglia di cercarle. Antonella, non ci siamo. Ci vuole una cosa semplice. E visto che tra tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Io sono qui, ma anche di Vendo tutto l'anno scorso, ce n'è una che le rappresenta tutte, che ormai conosciamo personalmente, appena chiamato non potevamo fare a meno di prendere al telefono. Cesarina da Torino, pronto Cesarina? Mi riconosci? Ma come? Che domande, Cesarina? Ci siamo... No, senti, è un secolo che non ci sentiamo. Senti. Nel senso che non ascolti il programma, Cesarina? Nel senso che non ascolti il programma? Non sempre, perché ho avuto tante cose per la casa. Poi sono stata malata, adesso sto bene e sto preparando le tele, allora potevo permettermi. Giusto, perché per chi non lo sapesse, Cesarina è una pittrice, ci ha mandato anche una foto per... E voi dove siete? Andate a vederla. Cesarina, abbiamo poco tempo. Che cosa vuoi da tuo marito, che ricordaci si chiama? Dunque, Giuseppe. Giuseppe. Noi siamo... mio marito ha 80 anni. Sì. E noi però non ci sentiamo per niente rottamati. Bravi. Oh, brava Cesarina. Anche perché... E facciamo l'amore una volta alla settimana, anche più. Ma veramente? Sì. Anche di più? Sì, ma lui non... qualche rara volta usa il Viagra, ma rara volta. Va bene Cesarina, non voglio entrare tra le vostre lenzuola, dimmi solo che cosa vuoi da tuo marito per il tuo compleanno. Ma senti, a me basterebbe un fiore qualsiasi, però è che lui non ha avuto l'educazione, non è stato abituato a regalare per il compleanno. E io ce ne soffro tanto, guarda, 33 anni che lo amo e ogni volta aspetto che mi venga con un fiore e non viene mai. Va bene, Cesarina, di a Giuseppe che comunque lo ami anche per quello, ma anche perché si dimentica di regalarti un fiore. Cesarina, certo. Grazie mille e richiamaci quando vuoi, eh? Va bene, ciao. Ciao, buona giornata, grazie ciao, mille. Io ringrazio innanzitutto Cesarina, che era da mesi che non sentivamo. Ringrazio però soprattutto Vittoria Mussini, Roberto Scaltritti, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e anche Stefano D'Andrea. Leggo un ultimo messaggio prima di lasciarvi, che è quello di Sandra, che dice: un mio vecchio moroso qualche anno fa mi disse: Sandra, a te piace fumare. A te piace fumare sia le Marlboro che le Merit. L'importante è capire quale pacchetto passarti. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete? La donna. O l'uomo.